Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Ecco. 800 24 00 24 era la voce di Papa Giovanni XXIII che inaugurava il concilio, che esattamente 50 anni fa, l'inaugurazione avvenne nel 1962, nel 59 fu convocato un discorso del Papa nella Basilica di San Paolo fuori le mura e fu concilio ecumenico Vaticano II. Il Vaticano I era stato il concilio dell'Ottocento, della Chiesa trionfante, sicura di sé, però anche frustrata, sconfitta, espropriata del suo potere politico, il temporalismo, la Chiesa del sillabo, la Chiesa che rifiuta in toto la libertà religiosa, la democrazia, ogni elemento che, diciamo, in qualche modo rimandi all'autodeterminazione dell'individuo, del soggetto politico nel mondo moderno. Era la Chiesa che lottava contro le grandi massonerie laiche, contro gli stati appunto laicisti, contro le ideologie illuministe, ed era una lotta vera, insomma, con la confisca dei beni, con l'anticlericalismo in nome degli antichi ideali di libero pensiero, insomma. No, la Chiesa era considerata l'istituzione che bruciava gli eretici e quindi veniva combattuta come centro, partito chiave, diciamo, dell'intolleranza e dell'incapacità di capire e amare la libertà degli uomini. Il Vaticano II cambiò tutto. Ecco, la cosa è un po' strana, perché oggi noi, tutte le volte che troviamo di mezzo il cristianesimo, il cattolicesimo, le idee, l'etica cattolica o cristiana, o la dottrina sociale della Chiesa, o elementi che rimandino comunque alla Chiesa, sia quando c'è la questione della pillola o della pillola del giorno dopo, sia quando c'è la questione dell'aborto, del divorzio, dell'eutanasia, insomma, tutte le volte che nel testamento biologico, tutte le volte che nasce un grande problema che turba le coscienze, noi diciamo: ah, c'è la Chiesa oscurantista, o comunque la Chiesa retrograda, la Chiesa. Ma la Chiesa è stata anche antesignana della modernità, cioè negli anni 60, con una grande svolta, ha dato il via a quella nuova mentalità, no? Scrutare i segni dei tempi, disse il Concilio Vaticano II, invece che battersi contro l'empietà della modernità che sommerge le vecchie certezze della tradizione. Ecco, la Chiesa è stata all'origine, questo non se ne tiene conto in realtà, del cosiddetto paradigma della vita moderna, di come viviamo oggi, perché nei primi anni 60, con questa grande svolta, come dire, in qualche senso autorizzò, ci diede la chiave anche spirituale. In Occidente la Chiesa è autorevole, importante, per quanto non sia più quella di una volta, per essere come siamo, molto più moderni, con tutti i comportamenti che sapete, trasgressivi, diversi da quelli dei nostri padri e dei nostri nonni. Comunque la pensiate, è una cosa, diciamo, interessante da esaminare, anche perché oggi c'è chi, e lo abbiamo al microfono, il teologo Vito Mancuso, propone di fare un altro concilio ancora, di non guardare al concilio dello sposalizio Chiesa-Modernità in modo passatista, ma di promuoverne un altro per fare altre cose molto importanti. Ma adesso, dopo la borsa, vediamo, ne parliamo con lui al microfono e con Sandro Magister, che non è un teologo laico come Mancuso, che è docente di teologia moderna e contemporanea all'Università San Raffaele di Milano. No, Magister è vaticanista dell'Espresso, autore di un sito molto popolare, insomma un osservatore di vita vaticana e di vita cattolica, conosciuto in tutto il mondo attraverso le procedure online. Eccoci qua con il nostro Parliamo con l'Elefante, 800 24 00 24, e discutiamo appunto del cattolicesimo e della richiesta di un nuovo concilio, il Concilio Vaticano III. Professor Mancuso. Buongiorno. Buongiorno professor Mancuso. Buongiorno. Lei ha scritto un articolo di giornale, lei è un cattolico, un teologo cattolico, ma laico, insegna teologia in un'università privata fondata da quel grande sacerdote che è Don Verzé e che fa parte, diciamo, del suo sistema di saperi, eccetera. E lei su Repubblica, giustamente, dopo vari libri, dopo analisi puntuali, interessanti, appassionate, anche molto drammatiche del sentimento di Dio nel mondo moderno, di Dio, della natura, della storia, che cos'è l'uomo, come deve vivere l'uomo in relazione appunto alla storia e alla natura. E lei ha detto, invece di stare sempre a discutere sul concilio, il dopo concilio, il Vaticano II, prendiamo atto che c'è stata questa svolta radicale, che il concilio ha liberato, diciamo, il cattolico dalla sudditanza ai vecchi stereotipi, ai vecchi pregiudizi antimoderni della Chiesa tradizionalista. Adesso però bisogna liberarsi anche dalla soggezione all'idea di natura, perché l'uomo si autodetermina e si libera anche dal dominio su di sé della natura, dell'essere, di ciò che è oggettivo, di ciò che è dato. Può spiegarci bene questo concetto? Perché che l'uomo si liberi dalla presenza di Dio nella storia, no? La provvidenza, e si autorizzi ad essere libero, è già una cosa discussa tra i cattolici, perché tra i credenti, insomma, è una cosa complicata da accettare e da filtrare nella cultura cattolica. Ma che si liberi addirittura della natura mi sembra una cosa molto, molto difficile da argomentare, sebbene lei ci metta molto impegno e molta intelligenza. Quindi mi piacerebbe capire bene il suo concetto, la sua idea. Sì, io non dico che si debba liberare dalla natura, dico che bisogna pensarla in una maniera diversa, introdurre quel principio di laicità che il Concilio Vaticano II ha introdotto per l'appunto nella lettura della storia, e introdurlo anche per quanto concerne la lettura della natura. La convocazione della luna che faceva Giovanni XXIII, che evocava in quel discorso che lei ha riproposto, ecco, questa andrebbe fatta in maniera molto più puntuale, pensare veramente che cosa significa che noi siamo natura e qual è effettivamente il rapporto del singolo con la natura. Detto in altri termini, oggi si parla della natura, si ragiona sulla natura unicamente in termini di legge. Questa è la questione con cui il cattolico affronta la natura. La natura è unicamente fonte di legge. Perché? Perché dietro la natura si pensa... facciamo l'esempio, diciamo, per capirci bene, per popolarizzare questo argomento, come è giusto che sia, renderlo più giornalistico. Per esempio, la dizione per la quale la Chiesa si batte, la vita deve essere rispettata dalla sua origine fino alla morte naturale, dal concepimento alla morte naturale, è la trasformazione di un dato di natura, il concepimento di una presenza umana embrionale, e poi appunto il fatto che pulsa la vita anche in un corpo che la vita sta abbandonando, fino alla morte naturale. Cioè la natura come standard, criterio, legge, come dice il professor Mancuso. E quindi le discussioni che si fanno in Parlamento, le liti, il caso Englaro, eccetera, dipendono poi da questo impianto, anche da questi conflitti teologici. Scusi la parentesi, professor Mancuso, vada avanti. Poi appunto non ci sono dubbi poi che il discorso della vita sia decisivo, sia, però ecco, io metto il discorso in altri termini, cioè la mia Chiesa, la Chiesa Cattolica, per lungo tempo, il 700, l'800, parte del 900, per tutto ciò che riguardava le questioni sociali, le questioni civili, le questioni politiche, era fonte di conflittualità e di disagio all'interno del mondo moderno. Il Vaticano II ha consentito una grande svolta e adesso, per quanto concerne le questioni etiche a livello civile, a livello politico, a livello economico, anche a livello militare, perché è una delle poche forze la Chiesa Cattolica capace di profezia riguardo alla forza militare, ecco, il cattolicesimo non solo non è fonte di disequilibrio, ma è una delle poche voci di saggezza oggi presente. E questo si è dovuto a che cosa? Si è dovuto al fatto che il Concilio Vaticano II ha introdotto il principio di laicità nel leggere la storia. Cosa significa il principio di laicità? Significa che non che la storia sia abbandonata a se stessa, ma che tra il dito di Dio, tra la mano di Dio e ciò che avviene nella storia esiste il principio della libertà, dell'autodeterminazione dei popoli, della storia. Non c'è collegamento diretto tra la volontà divina e gli eventi storici. C'è una mediazione precisa che è data dalla libertà e di cui occorre tenere assolutamente conto. Accettando questo, la Chiesa Cattolica nel Vaticano II è diventata un grande elemento di saggezza, di equilibrio per tutto ciò che concerne le questioni, ripeto, economiche, civili, politiche, eccetera, militari e così via. Bene, io dico, la stessa svolta, lo stesso principio di laicità va esteso alla natura. Si tratta sempre di pensare naturalmente che la vita procede da Dio, tutto procede da Dio, l'essere naturale, anzi io sul principio della natura ho pensato l'anima, ho pensato la spiritualità, quindi non voglio pensare a una natura disabitata dallo spirito divino, assolutamente no. Dico però che occorre tenere presente che tutto ciò non passa se non attraverso l'autodeterminazione, se non attraverso la libertà. Quindi introdurre all'interno della natura anche il principio di laicità che abbiamo introdotto nella considerazione della storia, a mio avviso sarà ciò che consentirà alla Chiesa di riconciliarsi completamente con il mondo, che è quanto la Chiesa deve fare se vuole fare il suo mestiere, perché la Chiesa c'è per evangelizzare il mondo, per essere per il mondo, non c'è per rimanere pura cittadella di pochi separata dagli altri, non avrebbe alcun senso. La Chiesa il c'è. Cosiddetto piccolo gregge, la Chiesa come setta di cui parla Hans Küng. Sì. Una prospettiva di questo genere. Aspetti, non ha senso. Adesso arriveremo a questo, professor Mancuso. Volevo chiedere a Sandro Magister una cosa. Tutto vero quello che dice il professor Mancuso, cioè l'autodeterminazione, la libertà è esplosa come un nuovo scandalo, diciamo, culturale, spirituale, eccetera, anche per merito della Chiesa del Concilio Ecumenico Vaticano II, nella seconda metà del Novecento e dopo le traumatiche esperienze dei totalitarismi, noi abbiamo pensato di esserci liberati da ogni istanza di soggezione, da ogni. E la Chiesa in questo ha aiutato il mondo, no? Con i suoi grandi documenti, con lo spirito conciliare, la Gaudium Spes, la Lumen Gentium, eccetera. Però. Paolo VI disse: attenzione, che qui si è aperto uno spiraglio ed è entrato il fumo di Satana, del diavolo. E poi Giovanni Paolo II ha gestito, diciamo, l'eredità del concilio dicendo: spalancate le porte a Cristo, cioè come a dire: attenzione, perché il governo poi della vita cristiana è ispirato alla fede, è ispirato alla dottrina, è ispirato ai grandi interdetti che riguardano la vita. Ci sono delle proibizioni, ci sono dei tabù, ci sono dei comandamenti da rispettare. E quindi, nello stesso momento in cui diceva ai giovani a Tor Vergata: andate, incendiate il mondo, poi aveva la sua dottrina dell'alleanza tra fede e ragione, che poi portava una certa idea del matrimonio, una certa idea dell'amore, una certa. E così Benedetto XVI, che era il grande teologo di Giovanni Paolo II e che poi è stato eletto Papa, e più o meno mantiene, diciamo. Ora, Magister, l'idea di un Vaticano III come si colloca, diciamo, dentro questo Vaticano II che ha comportato una svolta, ma poi è stato governato, gestito dai papi, dagli ultimi tre papi, da Paolo VI, insomma, da Giovanni Paolo I anche, che però ha regnato solo un mese, poi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in questo modo problematico, drammatico, conflittuale? Ma vede, è come un fiume carsico la proposta di un Vaticano III che riaffiora periodicamente con segni diversi. La penultima volta in cui è affiorata fu in modo molto clamoroso con un intervento di Carlo Maria Martini, il cardinale, in un sinodo dei vescovi del 1999. E Martini auspicò quasi un sogno di un nuovo concilio che affrontasse dei temi che lui ha elencato molto sommariamente, che andavano dal celibato del clero al ruolo della donna e a un'eventuale ordinazione sacra delle donne, al ripensamento completo dell'ecumenismo, al ripensamento della morale sessuale. Ecco, queste erano le indicazioni. E prima ancora si può dire che una dozzina d'anni dopo la fine del Concilio Vaticano II c'erano già autorevoli teologi, tra cui Hans Küng, che proponevano il Vaticano III. Ma in realtà nella storia della Chiesa i concili si sono sempre tenuti per ragioni sostanzialmente interne alla fede cristiana, per controversie che venivano viste come mettere in gioco i fondamenti della fede cristiana stessa. Basta pensare ai concili cristologici dei primi secoli, che erano tutti concentrati sul capire la figura di Gesù. E il Concilio Vaticano II è stato esattamente un altro di questi concili che aveva avvertito che la Chiesa si era trovata in una sorta di vicolo cieco in particolare ad esempio quello che è stato richiamato prima, che riguardava la libertà religiosa, sì. E si è divincolata da lì ripensando proprio questo tema della libertà religiosa e comprendendo che tra l'illuminismo e la fede cristiana c'è in realtà una profonda corrispondenza. Ecco, spieghiamo bene, cioè la Chiesa prima del Concilio riteneva eretici e scismatici tutti quelli che non erano cattolici, diciamo così all'ingrosso, no? E non c'era l'idea che il cristianesimo e la cattolicità dovessero convivere con altri soggetti spiritualmente accettati e anche promossi come vie diverse al divino, che non fossero appunto la Chiesa cattolica unica, santa, una, santa, eccetera, e apostolica. Questa cosa è cambiata con l'idea della libertà religiosa e la dichiarazione Dignitatis Humanae. È questo che lei sta dicendo. Beh, no? È cambiata, ma naturalmente con l'autocomprensione da parte della Chiesa che questo cambiamento, in fin dei conti, riportava la Chiesa alle sue origini, riportava la Chiesa a una sua ricchezza interiore che era stata offuscata, era stata mal attuata in un periodo in cui veramente le colpe della Chiesa non erano soltanto sue, ma erano appunto di un conflitto vero, reale, che esisteva tra dei poteri laici e la Chiesa stessa. C'era un conflitto che non era fatto di tipo soltanto teorico, era un conflitto che era fatto di cose molto concrete e molto pesanti. Ecco, c'è stata questa fuoriuscita della Chiesa da questa impasse. Ecco, però adesso vedremo dalle prime telefonate che arrivano che la grande maggioranza degli ascoltatori, almeno insomma naturalmente sono dati statistici, sono con Mancuso, sono con l'idea che la Chiesa si è barricata nella sacralità e che quindi non, insomma, la Chiesa deve stare nel mondo, deve essere per il mondo, con il mondo. Ecco. Sì, naturalmente, non inginocchiandosi al mondo. La famosa protesta dei grandi pensatori cristiani degli anni 60 e 70, da Maritain a De Lubac a von Balthasar, era esattamente di questo tipo. Una Chiesa che apre al mondo non deve però inginocchiarsi al mondo. È un punto centrale, dopo la pubblicità lo affrontiamo con Mancuso. Grazie Magister. 800 24 00 24, se la Chiesa debba diventare ancora di più una istituzione sciolta nel mondo moderno e se debba addirittura rivedere la sua idea, la sua nozione di ciò che è la vita umana dentro la natura, di ciò che è la natura, nel senso, diciamo, indicato dai progressi della ricerca scientifica, cioè autorizzando sostanzialmente come dire, una funzione dell'uomo creatore, dell'uomo che manipola e che ha tra le sue mani, senza troppi interdetti, senza troppi pregiudizi, la vita umana. Quindi sono grandi problemi con i quali facciamo i conti tutti i giorni e noi stiamo andando alla radice di questi grandi problemi, e la radice di questi grandi problemi è una radice di cultura, di fede, di spirito, ecco, affrontata in questo caso da Vito Mancuso, che abbiamo al microfono, e che suggerisce una via, ripensamento generale delle basi della fede cristiana, andando avanti, non fermandosi solo alla giusta alla lotta sulla interpretazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, ma addirittura promuovendo un nuovo concilio, come aveva proposto già il Cardinal Martini, ce lo ha ricordato Sandro Magister nel 99. Jorge da Roma. Jorge. A lei, eccomi, ospiti. Dica. Volevo fare una considerazione. Sì. Cioè, io penso che la cultura occidentale attuale non si può capire, non si può, diciamo, capire bene se non si tiene in considerazione, se non si è consapevoli che la cultura occidentale è frutto del cristianesimo di tanti secoli. E quindi in questo senso la Chiesa, diciamo, per lungo tempo è stata come dire, barricata, come diceva prima lei, dietro il concetto di sacro, mettendo da parte ciò che è profano. Quindi questa dualità ha creato una barriera nell'interpretare la realtà stessa. Quindi io vorrei chiedere ai suoi ospiti perché la Chiesa non riesce, diciamo, a superare questa barriera, perché poi tra l'altro penso questo... Ma lei non è sfiorato dal sospetto, Jorge, che la Chiesa non superi questa barriera, perché la Chiesa è questa barriera, è questa divisione tra sacro e profano. La Chiesa è custode del sacro, vive anche nel mondo profano, è un'istituzione di uomini, ma ha questa duplice natura e... ha un'origine divina, è fondato da Cristo, nel figlio senso di interpretare la realtà, perché penso che, diciamo, questo dualismo la Chiesa l'ha ereditata ancora, diciamo, dai grandi filosofi greci che ho capito. Jorge, adesso non possiamo approfondire anche in termini filosofici la cosa, la ringrazio molto della suggestione. Antonio da Roma e poi Mancuso, vorrei che Mancuso rispondesse. Buongiorno Antonio. Prego. Il mio discorso era questo: secondo me la proposta che fa il dottor Magister è comprensibile, ma è sbagliata dal punto di vista del momento storico, mi permetto di dire, e mi spiego in due parole. Lei dice la proposta di Vito Mancuso, del teologo Vito Mancuso, un concilio ecumenico Vaticano III. Terzo, sì. Esattamente. Perché? Perché è sbagliata? Perché Giovanni Paolo I, che è stato un grande papa, ma è stato un papa essenzialmente conservatore. L'attuale Papa Benedetto XVI è ancora più conservatore, si è visto con delle azioni che ha fatto, poi è dovuto, in parte è stato costretto a tornare indietro o meno. Quindi una proposta di Concilio Vaticano III che apra di più la Chiesa nella direzione del Concilio Vaticano II. E su questa cosa lei su questa cosa sarebbe d'accordo in linea di principio? Sì, ma secondo me non lo faranno mai, cioè se in questo momento se lei lo dice, faranno si apre... per tornare indietro. Ho capito. Va bene. Professor Mancuso. No, ma io innanzitutto voglio dire che la mia è una proposta che si rivolge ovviamente uso questo linguaggio ancien régime, insomma, ma alle anime dei credenti. Si tratta di prepararlo dentro di sé. Poi dico Vaticano III, potremmo dire anche Nairobi I, voglio dire, chi lo sa, il luogo, il quando, il dove. Si tratta di preparare uno spirito conciliare dentro ciascuno di noi. Conciliare vuol dire rendersi conto che esiste un grosso problema, che è appunto il rapporto della mente, della configurazione cristiana con la natura, primo, e secondo, il governo interno della Chiesa. Sono queste due le cose fondamentali che occorre registrare. Esiste questo grosso problema a cui i singoli, dentro di sé, ragionando, meditando, riflettendo, con intelligenza critica, con spirito di preghiera, devono iniziare a porre questo problema e a dare delle risposte. Poi sarà lo spirito a cui io credo fermamente a dire i tempi e, ripeto, anche i luoghi, perché chi l'ha detto che debba essere il prossimo concilio in Vaticano? Ma magari sarà appunto in Africa, sarà in America Latina, chi lo sa. Insomma. Ecco, io vorrei fare una piccola provocazione non spirituale, non parlando dentro, diciamo, una condizione che è quella dello spirito che alimenta, che nutre le speranze, le angosce, i sentimenti dei credenti. Voglio dire questo, ammettiamo Nairobi, Uppsala, dovunque sia, si fa un nuovo concilio, si va in questa direzione. Magister prima diceva, insomma, il piano di ricognizione martiniano intorno a un nuovo concilio. Allora, si rivede la morale sessuale in senso libertario, si ammette, diciamo, il prima matrimonio... Anche prima, perché dice libertario? Anche prima ha parlato di manipolazione, cioè qui non si tratta né di manipolare né di essere dei libertari, non è che bisogna aprire le porte al radicalismo, non è questo il punto. No, bisogna aprire le porte al radicalismo, però immagino che la direzione di marcia di una riforma interna alla Chiesa, viste le linee di conflitto che oggi ci sono, per esempio sulla questione della morale sessuale o matrimoniale o familiare, sia questa, cioè di dire, vabbè, benediamo le coppie che praticano l'amore anche se sono dello stesso sesso. Non mi sembra scandaloso, mi sembra una cosa ormai più o meno nelle cose, no? Benediamo le coppie di fatto, di qualunque natura esse siano, non stiamo fermi a una concezione naturalistica del matrimonio come unione di un uomo e di una donna. Se ci emancipiamo diciamo, da una stretta visione legalistica della natura, in quella direzione andiamo o no, professor Mancuso? Non è che io la voglia incastrare dicendo libertarismo, eccetera, per rendere suggestivamente impalatabile, incommestibile la proposta di un nuovo salto in avanti della Chiesa Cattolica, eh? Non sto facendo trucchi dialettici, però obiettivamente se si rivede la morale sessuale è in quella direzione, no? Sì, bisogna rivederla nella direzione che ha auspicata dal Concilio quando parlava nel punto 7 della Dignitatis Humanae, certo. Diceva nella società va riconosciuta una completa libertà, all'uomo va riconosciuta la libertà più ampia possibile. Solo quando è strettamente necessario la libertà si può limitare. Ma io dico, senza che questo mi comporti alcuno scandalo, io non la penso così, penso che invece l'autodeterminazione dell'uomo sia un grande inganno illuministico, però lasciamo stare le idee filosofiche di ciascuno. Andiamo al dunque, io dico, se si rivede la morale sessuale e familiare e matrimoniale, se i divorziati e gli sposati vengono perdonati e ammessi all'Eucaristia, se si afferma il sacerdozio universale, che era un dogma, diciamo, della riforma protestante, nel senso che si svaluta il ruolo del sacerdote e si rivaluta e si costruisce la nuova grande figura appunto del sacerdozio laico, se si col celibato si avvicina, con la fine del celibato dei preti si avvicina sempre di più al laicato la funzione del sacerdote, che diventa un pastore come nel mondo protestante sostanzialmente, se si ammettono le donne al sacerdozio con una innovazione anche lì storico, strutturale, di linguaggio, del modo di presentare, se si fanno tutte queste cose, compresa la contraccezione, compresa magari, non dico l'eutanasia, ma insomma un testamento biologico che largheggi nel dare poteri su se stessi all'uomo. Io quello che mi chiedo veramente, diciamo dal mio punto di vista, fuori le mura della Chiesa non cambia poi molto, è l'evoluzione del tempo, filosoficamente andrebbe un po' e moralmente tenuta a bada, perché mi pare che stia portando anche a dei risultati non commendevoli, però, ma dico, dal punto di vista cattolico, cosa resta della Chiesa Cattolica se si fa tutto questo? Ma guardi, la stessa obiezione che faceva Lefebvre, è esattamente la stessa. Sì, ma io non sono mai demonizzante. Lefebvre era un vescovo cattolico, sarà stato cattivo. Sì, va bene, però. Non lo so, non l'ho conosciuto, ero. Appunto. Ma intendo dire che è la stessa obiezione che faceva Lefebvre, sì. E che ha portato effettivamente al caso dei lefebriani, cioè se si cambia la liturgia. Se si innacqua il primato petrino parlando di collegialità, se sì. Si considerano gli altri cristiani appunto non scismatici, non eretici, ma fratelli nella fede, se le altre religioni vengono considerate anche loro capaci di salvezza, se gli ebrei vengono considerati non più popolo deicida, allora cosa rimane? Se si ammette la libertà religiosa, allora che cosa rimane dello specifico cristiano? Perché uno dovrebbe essere cattolico? In che senso la religione cattolica è l'unica religione vera? Attenzione, professor Mancuso, infatti Lefebvre dice, allineando la questione degli ebrei alle altre, lei potrebbe, no, non lo vuole fare naturalmente, ma si potrebbe suggestivamente dire che se uno è tradizionalista allora deve negare la Shoah, proprio così, eh? No, per esempio Ratzinger non è minimamente antisemita, sulla Shoah è uno di coloro e sul dialogo con gli ebrei che ha creato proprio, ha detto sono la radice della nostra fede, anche con la Dominus Iesus, con la sua istruzione teologica su Cristo unico mediatore di salvezza, detto qualcosa di diverso dalla pura constatazione siamo fratelli separati in relazione alle altre religioni, io non volevo fare assolutamente questa paragone tradizionalista uguale antisemita, mi limitavo a ricordare il dato storico del vescovo Marcel Lefebvre che all'interno del Vaticano II voleva che si continuasse a parlare del popolo ebraico come del popolo deicida, tutto qui. Che questo è un dato di fatto, un conto è dire questo, un conto è negare la Shoah. Io non sto dicendo che Lefebvre negava la Shoah, non ho parlato di Williamson, ho parlato di Lefebvre e ho parlato del popolo deicida, ho detto queste cose, ma tornando però al ragionamento principale, io semplicemente dico, la sua preoccupazione era mutatis mutandis, la stessa di Lefebvre. Ora, questi cambiamenti a quei livelli che ho detto sono avvenuti e non mi sembra che la Chiesa Cattolica abbia perso rispetto alla Chiesa preconciliare. Chi avesse dei dubbi al riguardo basta che dia un'occhiata ai lefebriani per capire che cos'erano i cattolici prima del Vaticano II, cosa sarebbero stati senza Vaticano II. Quindi io dico, sono problemi immensi quelli che lei ha superato, ma figuriamoci, e non è certamente un singolo, tantomeno un singolo teologo, ma dico neanche un singolo vescovo, dico neanche un singolo papa che può affrontare problemi così immensi, così nuovi, così epocali che la scienza, la tecnica, l'innichilismo, eccetera, eccetera, presentano al nostro tempo. È per questo che c'è bisogno di credere nello Spirito Santo e di credere nel Concilio, perché il Concilio è quello che insegna la scuola bolognese, Alberigo, Melloni e così via. L'importanza enorme del Concilio è innanzitutto il metodo, cioè il fatto che le persone, i cristiani, i credenti si mettono insieme ragionando su queste cose e veramente lì si ha l'evento conciliare, si ha il momento nel quale lo Spirito parla alle chiese. Ci crediamo queste cose oppure no? Io se no. Queste cose non ci si crede, va bene, allora chi crede? Io penso cose? Che il Concilio sia un fatto di... storico, che la Chiesa sia un'istituzione storica, cioè la sua... quello non ci sono dubbi che sia un'istituzione storica e anche ben piantata. Però chi ha, voglio dire, un atteggiamento di fede, chi vuole stare all'interno della Chiesa non semplicemente come un partito o un'organizzazione, ma come qualche cosa che ha di più, che deve essere diversa dalle altre organizzazioni del mondo, non può non fare a meno di sapere, di volere che la Chiesa sia sempre più guidata dallo Spirito. Quindi, e chiudo, si tratta semplicemente di prendere atto di questi problemi nuovissimi e immensi, sì, che il mondo pone, e di pensarli insieme nella preghiera, nella serenità, nel confronto vero, sincero, parlandosi, tirando fuori i problemi veri, perché uno dei grossi problemi che si ha all'interno oggi della Chiesa è che non si riesce a parlare, non si riesce a dire le cose come stanno, lo spirito di parresia. Su questo mi permetto di contraddirla, perché per fortuna, io auspico questo da almeno 10 anni, se non di più, per fortuna oggi nella Chiesa, con la Chiesa, tra le Chiese, non si fa che parlare di Chiesa, non c'è ormai legge, non c'è precetto della vita civile sui e morale, giusto, sì. Ma no, non solo sui giornali, ma anche nelle parrocchie, l'assemblea, l'altare è rivolto verso l'assemblea, il prete guarda l'assemblea, si parla nelle lingue nazionali, si dice tutto, c'è stata la teologia della liberazione, cioè voglio dire, non si può dire che come si può dire che nella Chiesa non si parla? Anche Küng dice una piccola setta, il piccolo gregge, si fanno tutto tra di loro, non c'è più apertura. Io questo non trovo, ma magari mi sbaglio, Non lo so, io la penso un po' diversamente. È vero, si parla tantissimo e tra l'altro questo è sempre indice di un certo malessere, perché chi sta bene non parla di se stesso, uno parla di se stesso, chi è un po' di disagio. Ma all'interno della Chiesa, nella nomina dei responsabili, la modalità con cui si convocano gli eventi, le persone che si scelgono per parlare, tutto questo non è fatto sempre con quello spirito di apertura. Questo è vero, c'è un certo disciplinamento, diciamo, sì, teorico, culturale. 800 24 00 24, abbiamo al microfono il professor Mancuso per parlare del Concilio Ecumenico prossimo Venturo, della crisi della Chiesa, del destino della Chiesa, e anche Sandro Magister. Ma prima Giovanni da Firenze. Giovanni. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire questa cosa. Secondo me non c'è da fare un terzo, diciamo, come se ne stava parlando prima, Concilio Vaticano. Secondo me è l'uomo che si deve riconciliare con Dio, perché questa è un'epoca dove si pensa solo alla morte, le staminali, l'aborto e poi il libero consenso per morire. Si parla solo di morte, mai di vita. Questa è un'epoca, secondo me, in cui è l'uomo che si deve guardare dentro e riconciliare l'uomo con la Chiesa, non di certo la Chiesa con l'uomo, perché la Chiesa, questo è brutto a dirlo, non è democrazia. La Chiesa ha una regola, una legge e c'ha l'obbedienza. Questa è. Poi si possono fare delle aperture, però più di questo, secondo me, di quello che sta facendo oggi la Chiesa, non può fare. Nessuno, cioè lo Stato ebraico, nessuno pensa di fare un concilio. I musulmani non fanno concili, cioè nessuna religione al mondo fa concili, solo i cattolici devono fare dei concili dove devono aprire a delle cose, secondo me, che non esistono. non esistono. Cioè, bene, è molto chiaro quello che lei aveva, è molto chiaro quello che lei aveva da dire. Magister, Hans Küng, il teologo che insomma ebbe un conflitto molto serio fino alla perdita dell'autorizzazione a insegnare in nome della Chiesa in Germania, e che poi è stato invitato nel 2005 a pranzo a Castel Gandolfo dal Papa, sembrava che ci fosse stata una mezza riconciliazione perché erano stati amici dal punto di vista accademico, anzi Küng era come un mentore di Josef Ratzinger. Küng ha detto delle cose molto dure, ha detto il Papa vive in questo palazzo apostolico come se fosse nel Cremlino, è chiuso, non capisce quali sono le aspettative del mondo e non è in grado di andare oltre una logica settaria da piccolo gregge di conduzione pastorale e teologica della Chiesa, diciamo dentro i limiti di una impostazione tradizionalistica chiusa, e non può affrontare queste questioni, il celibato dei preti, la nuova morale sessuale, lo dice chiaramente Küng, l'autorizzazione alla contraccezione, insomma tutte le cose che il mondo sembrerebbe chiedere univocamente alla Chiesa di accettare e di promuovere. Di questo giudizio lei cosa pensa? Lei è un esperto di papi, di storia dei papi contemporanei, di storia vaticana, della Chiesa anche come istituzione, adesso non le faccio una domanda teologica. Pensa che questo è un papato di crisi, di transizione, chiuso, aperto, com'è? Ma lei ha detto bene, Küng riflette un po' quello che dal mondo molti si aspettano dalla Chiesa, ed effettivamente la discussione che stiamo facendo riflette quello che è il grande problema sullo sfondo, è la grande novità di questi tempi, cioè le rompere in modo fortissimo della questione di che cos'è l'uomo rispetto alla natura. Questo è il punto, da parte di una certa cultura presente oggi in Occidente c'è questa richiesta alla Chiesa di rompere i suoi vincoli e di accettare questo intreccio tra l'uomo e la natura che praticamente lo vede come parte della natura stessa, come frutto dell'evoluzione cosmica e biologica e privo sostanzialmente della sua dimensione trascendente. Ora, la Chiesa di fronte a questa sfida ha già una risposta, non è che la Chiesa sia incerta su questo, l'abbiamo sotto gli occhi che questa risposta c'è e viene data sistematicamente, in modo continuo, in modo molto argomentato, in particolare dal Papa attuale Benedetto XVI, ma in fin dei conti la Chiesa quale visione ha del rapporto tra l'uomo e la natura se non quello di quella formidabile pagina sapienziale che è quella che apre la Bibbia, il primo capitolo della Genesi, in cui abbiamo appunto la creazione ed è quella la natura, e abbiamo la creazione dell'uomo che si distacca però dalla natura perché è l'unico essere creato a immagine e somiglianza di Dio. E poi c'è questo mistero della libertà, una libertà immediatamente posseduta dall'uomo, data da Dio all'uomo, che però non è libertà così semplicemente come una sorta di lascia passare per qualsiasi cosa indifferentemente, ma è la libertà di scegliere tra il bene e il male. Ora, questa è la sapienza antica della Chiesa, che ha le sue radici ovviamente in questa pagina della Genesi che ho richiamato, e a proposito di questa pagina vorrei ricordare un commento formidabile di Sant'Ambrogio che nella sua glossa alla Genesi dice che il settimo giorno Dio si riposò perché aveva finalmente trovato qualcuno a cui perdonare. È il segreto della libertà ed è il segreto del rapporto tra Dio e l'uomo. Beh, era un grande genio religioso Sant'Ambrogio. Ma, senza dubbio. Oltre che grande vescovo. Sì. Certo, ora dicevo, queste risposte la Chiesa già le possiede e le dà a un mondo che in una sua parte, nella parte culturale che accennavo prima, effettivamente è reticente ad accoglierle, anzi è fortemente ostile ad accogliere questo tipo di proposta, ma appunto la questione della natura e della libertà sono le questioni capitali. Ecco, bisogna riconoscere al professor Mancuso di avere posto queste questioni con una intensa attività, diciamo, didattica e pubblicistica, da professore e da persona che scrive sui giornali, con estrema chiarezza, si fa capire da tutti, ed è molto radicale, ma non nel senso provocatorio, appunto suggestivo, dice proprio con un pensiero forte e orgoglioso, sebbene presentato metodologicamente con molta umiltà, le cose chiave, insomma. Professor Mancuso, per prendere uno spunto da magistere e poi avviarci verso la conclusione, La libertà è un bene in sé, è un valore in sé, o la libertà è la libertà di scegliere tra il bene e il male? La libertà si dice in molti modi, il primo dei quali è autonomia. Senza la possibilità di scelta, senza la possibilità di essere effettivamente autonomi, non ci può essere libertà. Poi però la libertà diventa sempre più cresce, più diventa se stessa nella misura in cui aderisce al vero, aderisce al bene, e si giunge, per esempio, per fare un esempio, alla libertà necessitata che hanno i grandi pittori, che sono necessitati rispetto al bello. Non è che sono meno liberi rispetto a chi non sa disegnare o a chi non sa distinguere i colori, o la libertà che aveva Mozart o Bach, che non potevano non comporre bene. Non è che sono meno liberi rispetto a chi può comporre bene e male. Loro potevano comporre solo bene perché sono necessitati dalle leggi dell'armonia, e questo è però e questa quindi è la libertà compiuta, la libertà che alla fine sceglie solo il bene, solo il giusto, la libertà che aderisce alla verità, che vuole solo la verità. Però questo è l'ultimo momento a cui la libertà giunge. Prima di tutto, lei dice, c'è l'autonomia. C'è l'autonomia, per forza, questo è il passaggio. E il compito della Chiesa e del cristianesimo consiste in questa educazione della libertà, dall'autonomia di scegliere quello che si vuole alla libertà consapevole che sceglie solo il vero, la giustizia. La ringrazio molto, professor Mancuso. Ringrazio anche Magister e gli ascoltatori che ci hanno telefonato in tanti. Non ho potuto passare molte telefonate perché i temi erano complessi. Abbiamo cercato in un'ora di chiacchierare in modo analitico intorno allo sfondo di tutte le grandi questioni sulle quali ci si accapiglia tutte le volte che si parla di questioni che abbiano un contenuto, diciamo, che riguarda l'arbitrio e la libertà, il libero arbitrio morale dell'essere umano: coppie di fatto, testamento biologico, aborto, struttura della famiglia, matrimonio, autorità, laicità dello Stato. Lo sfondo è questo, quindi è una cosa importante, continueremo a discuterne in futuro. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Matè, linea a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0 dopo il giornale radio. Grazie a tutti, baci, a domani. No, a domani? Sì, a domani? Sì, oggi è giovedì, sì, a domani.